calera il raggio. Calerandaggio, vivo situazioni di disagio. In un mondo occidentale stretto nel suo stesso agio, chiuso nel plagio, pista sofisticata, variante tecnocratica di tirania eclissata. Osservo l'avvenire, cercando di scoprire quale sia il contesto per la facoltà di agire. Nel fondo di me stesso minimizzo le mie mire, emergendo come il Buddha dallo sporco di venire. Immergendomi nell'uno di nessuno, rinunciando all'apparire, mi impedisco di soffrire. Manifisco le mie umane qualità, qualità, consacra la realtà, la pluralità. Vorrei un centro di gravità, al di là dell'insana necessità, dei presupposti falsi della nostra falsa libertà. Calerandaggio, in cattività resto malvagio, cresciuto pane tela, dipendenze e valore, a testo del banale, l'assassino potenziale, perché io si trovo di un mondo che implode. Calerandaggio, in cattività resto malvagio, cresciuto pane tela, dipendenze e valore, a testo del banale, l'assassino potenziale, perché io sono il sintomo di un mondo che implode. L'inconsistenza stessa del contesto, l'incongruenza in cui mi manifesto, e il resto è spesso un disagio esistenziale ormai diffuso e il cui riflesso lampante nel bisogno di ricerca del successo, in cui l'identità è degradata essere un mezzo, e il prezzo è il concetto stesso del diverso, perso in questo morbido relativismo insulso, viene pagato dal dominio incontrastato dell'impulso. Insulta la passione, avvolge le persone nelle verità del falso, di un cosmo condannato che è scomparso, come fosse relegato nello spazio di confronto d'Archimede. Rimane un tempo che procede e non concede al passato, al futuro, manco l'istanza di un dogma di fede. Incessante il presente trascina che cede, e se succede che cede, viene esiliato e condannato ad essere parte delle prede. Calerandaggio, in cattività reso malvagio, cresciuto pane tele, dipendente e vari mode, a testo del banale, l'assassino potenziale, perché io sintomo di un mondo che ora implode. Calerandaggio, in cattività reso malvagio, cresciuto pane tele, dipendente e vari mode, a testo del banale, l'assassino potenziale, perché io sono sintomo di un mondo che ora implode. In cattività reso malvagio, cresciuto pane tele, dipendente e vari mode, a testo del banale, l'assassino potenziale, perché io sono il sintomo di un mondo che ora implode.